prossima notte, ora c'è una mano, la mano chiama a me, le ma sto piangere, sarà nel copecchio, le ma sto piangere, sarà nell'orecchio. Le mani sto piangere, sarà nel copecchio, le mani sto piangere.